Buonasera, benvenuti a tutti. Da parte di tutto lo staff della biblioteca un cordiale benvenuto, in particolare dalla nostra direttrice, la dottoressa Valeria Trevisan, che stasera non può essere presente per un'importante riunione con il Ministero per via del PNRR, ma che ringrazia gli ospiti presenti qui e tutti voi ospiti qua. Prima di cominciare a immergerci nel libro di questa sera, il Anelli d'Italia, le date che fecero una nazione, un volume che ripercorre un po' quelle che sono le vicende, le date più importanti della nostra nazione, ne approfitto per fare un brevissimo recap delle attività prossime che ospita la nostra biblioteca, ma vi rubo soltanto qualche minuto. Adesso avremo una breve interruzione al pubblico dal 25 al 1 maggio per il ponte, ma poi la biblioteca riprende subito con tutte le sue attività e riprendiamo in particolare il 7 maggio con la presentazione del libro Il vetro di Murano, storie di mestieri e fornaci, un'iniziativa nata anche in collaborazione con la ripartizione sviluppo economico e l'ufficio area artigianato della provincia autonoma di Bolzano. Saremo insieme a uno dei coautori del volume, il professor Zan dell'Università di Bologna, e ci occuperemo insieme di ripercorrere questa azienda produttiva così importante che è quella del vetro. E sarà molto interessante anche ripercorrere da un punto di vista anche economico quello che riguarda la fabbrica e i processi aziendali. La biblioteca non organizza soltanto presentazioni di volumi, ma abbiamo anche dei gruppi di lettura molto attivi. L'appuntamento a maggio è previsto per l'8 alle 17, dove verrà letto il volume Il fuoco invisibile. Verrà trattato un tema che è anche molto attuale qui da noi in provincia di Bolzano, ossia la storia di questo parassita, il bostrico. Nel volume siamo ambientato in Puglia, ma anche questo è un tema estremamente attuale nella nostra provincia. Infine, gli appuntamenti proseguono la settimana successiva, anche qui siamo già il 14 maggio, dove avremo una conferenza dal titolo Luci ed ombre del materno, conferenze e riflessioni sul materno attraverso alcuni dipinti, in compagnia della psicologa e psicoterapeuta Giuliana Beghini Franchini, e verranno analizzati una serie di dipinti da Klimt a Botticelli e tanti altri ancora, e verrà analizzato il tema del materno, ma applicato con una, diciamo, da un punto di vista psicologico e con un connubio tra psicoterapia e arte. Le iniziative come quella di questa sera vengono tutte registrate, quindi sono disponibili per il nostro pubblico, quindi per chi non può essere presente qui stasera, per quelli che vorranno recuperare questa iniziativa e ripercorrere qualche passo, e quindi vi invito tutti a visitare il sito della biblioteca e a cliccare e a risentire tutte le nostre iniziative audio. Siamo attivi non soltanto con il nostro sito, ma anche abbiamo una pagina Facebook e Instagram, e quindi vi invito a rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le nostre iniziative. Non rubo ulteriore tempo, lascio parola agli autori di questa sera, Massimo e Mauro Minniti, che dialogheranno insieme a Marco Angelucci. Buon ascolto a tutti. Grazie, benvenuti a tutti. È un piacere per me presentare questo libro di due amici di vecchia data. Mauro, insomma, abbiamo avuto una lunga storia di rapporti quando faceva politica. Io ho sempre fatto il giornalista. Sì, tu hai avuto più vite invece in questi anni. Sei stato prima giornalista, poi politico. E poi ti sei affacciato a questa tua terza vita, che è quella di scrittore, e hai coinvolto Massimo. Che però, questo consentimi di dire, un po' la scrittura l'ho iniziato io quando collaborava col Corriere dell'Alto Adige, quindi mi prendo un po' di merito adesso. Mi ha divertito vedervi e anche sapere, sapervi lavorare insieme su, su un tema così. Devo dire che ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. Non che, come voi mi conoscete, io sia un grande esperto della storia nazionale, sono più altri... altri temi, ma ho scoperto veramente tante cose, merito insomma di due menti che si sono messi insieme. Mauro, che aveva già scritto molti libri insomma sulla storia sia dell'Alto Adige sia d'Italia, le bandiere insomma, e Massimo, che insomma la sua passione, i suoi studi per l'archeologia l'hanno portato anche a fare un'analisi molto interessante del periodo romano. Allora, su una cosa non sono molto d'accordo. Allora, voi dite che Lazio nasce prima di Roma, e qui secondo me vi siete fatti un po' traviare dalla vostra fede calcistica. Però questo per dire che la vostra storia e la storia d'Italia voi la fate iniziare molto molto prima di Roma, e questo era un dettaglio curioso che dobbiamo anche alla precisione dell'archeologo alla mia sinistra, Massimo, che tu hai fatto ricerca anche proprio sul campo andando a scavare. Mi ricordo quando insomma mi chiamavi, abbiamo trovato e quindi insomma hai avuto anche modo di fare un'esperienza sul campo che qui secondo me sei anche riuscito a valorizzare. Allora, questa idea di allora dico ancora un'altra cosa ogni tanto insomma per far contento Mauro, li scambierò così lui si sente più giovane, però partirei da Massimo. Tu fai iniziare la storia d'Italia addirittura da questo re Italo che inizia a far parlare di sé molto, ma molto prima di Roma. È questo l'inizio, allora? Beh, diciamo di no. Innanzitutto Italo era un re leggendario, non si sa neanche della sua esistenza vera e propria. Insomma, è un re eponimo, ha dato il nome alla nostra nazione, l'Italia. Invece io sono partito da delle date poco conosciute, che sarebbero le date in cui sono stati attestate i primi rinvenimenti di esseri umani in Italia. Insomma, ecco, facciamo conto che a Piro Nord, in Sud Italia, hanno ritrovato il primo insediamento umano d'Europa, addirittura, in Italia. E 600.000 anni fa hanno trovato, cioè, è stato datato un dente di un bambino a Isernia la Pineta, sempre nel Sud Italia, insomma. Però non era un essere umano come noi, apparteneva a un'altra specie, l'Homo heidelbergensis, ora estinta. Invece i primi resti di umano moderno, quindi quelli della stessa specie nostra, sono stati trovati alla baia di Uluzzo e sono datati a ben 44.000 anni fa. Quindi sì, è importante dire l'Italia è nata prima di Roma, però bisogna anche capire che i primi abitanti, la prima gente che viveva in Italia erano proprio degli uomini preistorici, che ancora oggi vengono discriminati per la specie. Insomma, oggi esiste un criptorazzismo verso le specie umane considerate tra virgolette inferiori, ma così non sono, perché sono specie animali come la nostra. E quindi io sono andato lì e mi è piaciuto comunque divulgare un po' questo dato. Ecco, poi funziona questo? Sì, ecco. Di questo re mitologico Italo, che appunto sembrerebbe dare il nome all'Italia, una figura mitologica, ma c'è qualche traccia pratica di questa civilizzazione? Allora sì, c'era una popolazione che veniva chiamata Vituli, nel Sud Italia, nell'attuale Calabria. Insomma, Vituli perché adoravano il vitello, perché Ha a che fare con il re Italo? Chi lo sa? Non lo sappiamo, insomma, noi non lo sapremo mai, però dal punto di vista della parola ci potrebbe essere un aggancio, una connessione. E i Vituli era questa popolazione che viveva nell'odierna Calabria, prima della fondazione di Roma, addirittura siamo nel primo millennio avanti Cristo, siamo tra il decimo secolo e il settimo secolo avanti Cristo comunque, e questo popolo in pratica adorava il vitello. Il vitello è simbolo di fecondità, simbolo anche di prosperità. L'abbiamo visto anche nella tradizione ebraica, quando Mosè scende dal Sinai ha ritrovato il popolo che adorava un vitello, insomma, perché volevano dare a Dio un'immagine vera e propria, perché Dio non veniva rappresentato, e avevano scelto il vitello. Quindi questa simbologia del vitello lo troviamo in tante altre culture, e quindi i Vituli sarebbero coloro che adoravano il vitello, i progenitori, gli antenati degli italiani. Ecco, partiamo dagli antenati degli italiani, ma partiamo anche da come è nata l'idea di fare questo libro sulle date significative della storia d'Italia. Vi siete trovati una sera a cena, come è andata, Mauro? Stavate discutendo animatamente sulle origini dell'Italia e avete scelto di fare un libro. Come nasce? Allora, sicuramente ci siamo trovati a cena, perché giusto lì riusciamo a incontrarci. Mi si permetta, prima di rispondere, di ringraziare la struttura che ci ospita, tu Marco, che hai accettato questa nostra richiesta anche di essere presente, l'assessore alla cultura, l'assessore provinciale e vicepresidente della giunta provinciale Marco Galateo, che è voluto intervenire. E nasce dalla esigenza, crediamo, di collegare le date italiani agli eventi e gli eventi alle date che hanno fatto la nazione. Molte volte noi cittadini conosciamo, non so, un evento che è accaduto, ma non lo ricolleghiamo a quando è accaduto. Oppure ricordiamo una data, 1848, non parliamo in questo libro del 48, ma non sappiamo che cosa è accaduto nel 48. E allora abbiamo detto, perché non proviamo a collegare le due cose assieme e quindi a far conoscere al cittadino la storia della propria nazione a ovo. Massimo giustamente parlava dei primi ritrovamenti umani, noi partiamo dagli indoeuropei, partiamo quindi anche del 1700 avanti Cristo e 1200 avanti Cristo, quando le prime popolazioni indoeuropee, Latino Falisci nel 1700, Osco Umbri e poi Illiri nel 1200 avanti Cristo, giunsero in questa penisola che poi noi abbiamo chiamato Italia. Quindi questa necessità di collegare gli eventi alle date, e ci ha portato a individuare in questo primo volume quasi 500 date che vengono collegate agli eventi. Ecco, crediamo che questo sia anche un servizio che facciamo al cittadino, affinché conosca meglio più profondamente le radici della propria nazione. Quindi un libro che nasce da quella che è una vostra passione comune, la storia, ma è nato da una discussione. E poi soprattutto, come avete anche strutturato l'attività di ricerca? Perché c'è effettivamente tanta ricerca. Io ho sempre studiato storia, come dicevo non sono uno specialista della storia d'Italia, però ho trovato veramente tante cose che non sapevo, a cominciare dai vituli. Ecco, vi siete dati dei tempi? Dove siete andati a pescare le informazioni, visto che è anche un lavoro di grande ricerca storica? Dunque, discussioni, certo, perché quando ci si confronta non possono non esserci discussioni. L'importante è che poi si arrivi a un punto di incontro. E Massimo ovviamente ha curato tutta una parte che a lui è più congeniale, che riguarda anche i suoi studi universitari, quindi... Poi come ci siamo divisi? Ognuno ha scritto i capitoli, poi abbiamo cercato di omogenizzare la scrittura in maniera che apparisse come se fosse due mani anziché quattro a scrivere. Credo che in questo siamo riusciti anche molto bene, perché il libro ha una sua continuità nella lettura e nella narrazione. Quindi, se Massimo vuole aggiungere qualcosa sulle divisioni dei ruoli. C'è stata ben qualche difficoltà dal punto di vista della scrittura, della redazione. C'è chi scriveva in modo più accademico, c'è chi scriveva in modo un po' più divulgativo, c'è chi pensava una teoria confronto ad un'altra, quindi anche qua abbiamo avuto discussioni storiche, insomma, di questo tipo. Poi, come ha detto papà, insomma, ci siamo ben... Siete riusciti a fare sintesi. Sì, fate far sintesi. Quello è l'importante. Inizialmente doveva essere un libro sulle battaglie più importanti dell'Italia. Poi abbiamo ampliato il raggio e siamo detti no, l'importante è fare un libro sulle date che fecero la nazione. 3 anni e mezzo in pandemia, perché abbiamo incontrato in pandemia. Un po' come... Boccaccio scrisse il Decameron durante l'epidemia di peste, noi ci siamo messi da parte per scrivere parte della storia d'Italia, ecco. Ecco, volume 1, il volume 2, ci sarà un volume 2 anche e un volume 3 anche, accennavi prima. No, ma adesso aspetta che ti faccio la domanda. Allora, ad un certo punto però la storia finisce. Come fate ad andare avanti? I prossimi saranno sul futuro dell'Italia o sempre solo sul passato? La storia non finirà mai. Oggi è già storia. Quindi un minuto fa è già storia, no? Se vogliamo dire. No, sicuramente noi abbiamo impostato questo lavoro su 3 volumi. Ringrazio la pazienza dell'editore Gander che ha accolto queste nostre idee e il secondo volume partirà e affronterà tutto il Risorgimento, quindi dal 1848 fino al Milite Ignoto, all'inumazione del Milite Ignoto, che è il momento, secondo noi, in cui finisce il Risorgimento. Che in realtà inizia un po' prima, perché il Risorgimento vero e proprio inizia nel 48, ma inizia già con il Congresso di Vienna, quando praticamente c'è il ritorno all'Ancien Régime, quando si spartiscono l'Europa e l'Italia, e quando nasce questo sentimento ancora più forte di quanto fosse prima di rivendicare la penisola a una nazione che era riuscita ad esprimere tanta cultura, era riuscita ad esprimere tanta letteratura. Parliamo del Rinascimento, no? Se vogliamo, che è un momento importante e che, questo ci sia anche da lezione, e che viene a seguito di una pace, perché Venezia e Milano, dopo 20 anni di guerra, decidono di fare la pace grazie alla collaborazione della Signoria di Firenze, e questo anche perché la Francia si era liberata dal suo conflitto che stava intercorrendo in quel periodo, e anziché mettere i soldi che risparmiavano per la guerra per riarmarsi, li misero per creare arte, per creare letteratura, per creare cultura. È praticamente dalla pace di Lodi che nasce il nostro Rinascimento, e quindi nasce il nucleo fondante, se vogliamo, della nazione attuale. Ecco, quindi il Congresso di Vienna poi nel 1815 rianima e fa rivendicare agli italiani questa necessità di non essere più gestiti e governati da forze straniere, ma di... quindi il Congresso di Vienna ci ha fatto una grande cortesia, perché ha fatto nascere questo sentimento nel popolo italiano. Ecco, allora, prossimo libro sul Risorgimento, che è il periodo storico a cui normalmente si associa appunto la nascita dell'Italia, quindi i moti nelle varie città italiane contro la dominazione austriaca. Però la lingua italiana nasce molto prima. Questo sentimento nazionale, come diceva tuo fratello, no scusa, tuo padre, questo ho fatto apposta, l'avevo annunciato. Questo sentimento nazionale nasce nel 1800, ma la lingua italiana invece, e anche la cultura italiana del Rinascimento, nascono secoli prima. Com'è che nel periodo delle signorie non c'è nessun embrione di unità nazionale, ma c'è una lingua che, come avete raccontato, viene anche sistematizzata, viene utilizzata per comunicare, per scrivere, viene anche, insomma, comincia a diventare un patrimonio scritto, però l'unione di tutte queste signorie di cultura, poi di fatto italiana, non avviene mai. Come mai persistono queste divisioni? Come mai gli italiani, insomma, hanno un po' anche questa poi nomea Francia o Spagna, basta che si magna, va bene qualunque dominatore straniero, purché noi si abbia la pancia piena? Perché tarda così tanto questo sentimento nazionale a nascere? Beh, come diceva Dante, era un bordello. Lo diceva nel Purgatorio, è proprio un bordello, insomma, ecco. E, innanzitutto, anche noi stessi italiani siamo molto campanilisti da regione a regione. Chi è a Pisa, noi abbiamo la Torre di Pisa, chi è a Milano, noi abbiamo il Duomo di Milano, a Roma abbiamo il Colosseo e così via. E sono continuità caratteriali che ci sono ancora, comunque, quindi non è cambiato nulla da quel punto di vista. Si parlavano diversi volgari. Lo stesso Dante diceva che nessun volgare era superiore agli altri, addirittura. Addirittura il suo volgare fiorentino non era superiore al volgare siciliano e così via. Insomma, no, erano tutti sul suo piano, in pratica. E poi Dante non era il padre della lingua italiana, perché la lingua italiana, o meglio il volgare, si parlava ben prima di Dante, se facciamo caso. La lingua italiana, cioè il volgare, serviva per comunicare da corte a corte, perché prima si parlava il latino ancora. Il latino era una lingua per dotti, per i monaci, per la gente che andava a studiare, studenti, professori universitari un tempo, insomma. Però in realtà nel corso del Rinascimento ci fu qualche consapevolezza a utilizzare l'italiano nelle varie corti, insomma. E quello che ha portato avanti l'idea di parlare l'italiano, il volgare italiano nelle varie corti, fu Pietro Bembo. Pietro Bembo nel 500, però non prendendo l'italiano di Dante, ma prendendo l'italiano di Petrarca e di Boccaccio, perché considerava quello di Dante rozzo, volgare, comunque volgare nel vero senso della parola, e questo non andava bene. Quindi Bembo, Pietro Bembo, questo cardinale di cui si può dire tutto e di più, perché fu poeta, scrittore, seduttore, ebbe anche una storiella con la figlia del Papa, Lucrezia Borgia. E la stessa Lucrezia Borgia ha donato a lui una ciocca di capelli, addirittura. E c'era questa storia clandestina tra i due, insomma, ecco. Però Pietro Bembo poi diventò cardinale e lui diede delle regole guida, insomma. Quale italiano utilizzare tra questi che sono in voga? Utilizziamo l'italiano di Petrarca e di Boccaccio, perché sono molto raffinati, puliti, puri, insomma, e perché Petrarca e Boccaccio hanno fatto anche la storia della lingua italiana, in pratica, Boccaccio per la prosa, Petrarca per la poesia, ecco. Diciamo un passaggio anche sull'Accademia della Crusca in questa lotta tra i volgari, che ad un certo punto la Crusca viene abolita addirittura, c'è un tale conflitto tra le varie, diciamo, i vari campi, che addirittura mettono a tacere la Crusca perché era troppo invadente. Sì, in pratica sì, perché sono nati, facciamo il caso un po' più avanti, siamo nel Settecento, c'erano i fratelli Verri che erano contrari a un certo italiano, e c'erano i poeti dell'Arcadia, anche loro avevano una loro idea per scrivere l'italiano, però bisogna ricordare che la Crusca diede le regole grammaticali grazie a Bembo nel 1612, la Crusca, per quello che la Crusca per noi è importante, ora come ora. Diciamo che se Dante ha annuito la potenza culturale del volgare e Bembo, insomma, diede le regole, conferì le regole, il Manzoni nell'Ottocento, insomma, diede valore letterario all'oralità. All'oralità in che senso? Che gli italiani dovrebbero parlare una lingua nazionale, l'italiano. Infatti lui ha cercato anche di aiutare il Ministero dell'Istruzione per parlare italiano nelle varie scuole. Lui proprio proponeva di portare, anzi di ingaggiare dei professori toscani, dei maestri toscani. Lui si rifaceva al fiorentino. Ecco, fiorentino però che è cambiato confronto a quello di Petrarca, Boccaccio e ancora prima di Dante, ecco. Ecco, e qui arriviamo, siamo un po' in giorni più vicini a noi, arriviamo al tempo dei Savoia, che poi sono i primi che di fatto danno anche dignità di lingua nazionale all'italiano. Ne hanno fatto tante i Savoia, questa l'hanno fatta giusta. Sì, la domanda mi piace molto, perché noi siamo abituati a ricordare la monarchia e Savoia collegandoli solo alle infami leggi razziali. In realtà poi dobbiamo pensare che semmai quelli furono degli errori del monarca, non della monarchia, che Vittorio Emanuele III ne fece tanti altri di errori, su questo non discutiamo, però appunto la casata di Savoia, che è una casata che vive da ormai più di 1000 anni, sorta nel 1970, entrò tra virgolette in Italia nel 1070 circa, quindi 100 anni dopo della nascita della casata, grazie a un matrimonio con, non mi ricordo adesso il nome, comunque arrivò in Italia e in Piemonte. Però i Savoia, come dicevi tu, ne hanno fatte anche diverse di giuste. Cioè, se noi pensiamo che gettarono dalla finestra la lingua francese, con l'editto di Rivoli del 1561, proprio poco dopo gli eventi di Pietro Bembo, decisero che negli atti pubblici si dovesse parlare la lingua italiana o comunque quella lingua che era stata indicata. Fecero le riforme sull'istruzione nel 1764, soprattutto poi a Cagliari e a Sassari, dove loro si erano insediati nel 1720, creando il Regno di Sardegna, il nucleo fondante poi del Regno d'Italia successivo. Offrirono la riforma agricola, sempre in Sardegna, istituirono i consigli civici, cioè nel 1711 noi oggi consideriamo i consigli comunali come una normalità, ma allora non erano certo. E poi dobbiamo riconoscere un ultimo aspetto, cioè rinunciarono al proprio stendardo, perché era ancora lo stendardo, durante la prima guerra d'indipendenza, e optarono per mettere in capo alle truppe la bandiera italiana, quella che era nata nel 1797. Loro, Carlo Alberto, decise di adottare il tricolore con lo stemma sabaudo al centro, rinunciando però allo stendardo della casa sabauda, che è bianco rosso, no? Con la scroce, no? Sì, è quello, era blu, cioè il blu sabaudo, quello che usa la nazionale italiana, e poi questo blu riempiva tutta la bandiera. In alto a sinistra c'era questo quadrato rosso con la croce bianca in mezzo. Quello stendardo poi appunto è stato sostituito, la famosa bandiera diciamo sabauda di Savoia, del tricolore italiano, che ha accompagnato fino poi agli anni più recenti il nostro paese, fu il famoso modello Bigotti, in cui al centro del bianco della nostra bandiera si rilevò appunto lo scudo sabaudo contornato dal blu, per richiamare blu sabaudo, insomma. Ma il tricolore invece che noi portiamo in piazza quando vince l'Italia nasce quasi per caso, sicuramente c'è un'eredità della Rivoluzione francese a cui dobbiamo probabilmente anche il nome Alto Adige, ma queste prime coccarde tricolori fanno la comparsa in Italia con le truppe napoleoniche, però anche lì raccontate una storia divertente di Genova che si sbagliano, Luigi Zamboni a Bologna che... insomma finisce male per... La storia della bandiera italiana, che è uno dei simboli, no, della nazione, e per ogni nazione la bandiera è un simbolo insieme alla lingua, insieme all'inno, è curiosa, ma è stata costellata anche di sacrifici. È curiosa perché il bianco, rosso e verde nasce, viene adottato insomma casualmente a Genova, convinti sull'onda della Rivoluzione francese, perché pareva che in Francia avessero adottato il verde come terzo colore anziché il blu. Non c'erano i social, la notizia quindi del cambiamento del colore da verde a blu non arriva a Genova. Genova si grida alla libertà, alla rivoluzione, via dicendo, e adottano questo verde convinti che fosse la stessa bandiera francese. In realtà appunto lì divenne blu e noi ci tenemmo il verde, ma poi la storia della bandiera italiana è ancora più profonda, perché lo spirito del bianco, rosso e verde ci riporta al sacrificio di Zamboni e De Rolandis, che erano due universitari di Bologna, antipapalini, che durante una riunione sobillatrice contro il Papa, qualcuno li tradì, arrivarono i soldati del Papa nella Bologna papalina e loro riuscirono a fuggire, furono però poi arrestati e fecero una brutta fine. Uno morì autoimpiccatosi in una cella dove stava con due assassini. Un altro fu portato praticamente già cadavere al Cappio e qualche giorno dopo, quando Napoleone venne in Italia, seppe di questa storia e seppe che Zamboni e De Rolandis avevano individuato nel rosso e nel bianco, che erano i colori di Bologna, e nel verde della Speranza, i tre colori della bandiera italiana. E quindi Napoleone pare che disse, no, se loro hanno scelto questi colori, che questi colori siano. Quindi la bandiera italiana nasce sostanzialmente in seguito a questi avvenimenti, in seguito a questi eventi, e ci ha accompagnato e ci accompagna tutt'oggi. Ed è bello pensare un'altra cosa, che non è stata l'unità d'Italia a fare la bandiera italiana, ma è stata la bandiera italiana ad accompagnare l'unità d'Italia, perché la bandiera italiana nasce nel 1797 e l'unità d'Italia viene molti anni dopo, 60 anni dopo, insomma. Quindi e dietro questa, la storia della bandiera, ci stanno sacrifici. E un'altra cosa curiosa, che la bandiera sia un simbolo unificante, lo leggerete nel secondo volume, cioè quando parleremo praticamente delle cinque giornate di Milano, perché sarà quella bandiera, quei tre colori, il bianco, il rosso e il verde, nel 1848, ma poi con la Repubblica Romana del 1849, a guidare le rivolte popolari contro il potere straniero, monarchici e repubblicani assieme, borghesi e meno borghesi assieme, tutti verso il cammino, lungo il cammino della libertà del nostro Stato. Quindi vedete quanto sia importante e quanto sia unificante una bandiera, la nostra, come però per ogni altro Stato. Ed è per questo, perché dietro ad ogni bandiera nazionale ci stanno sacrifici, ci stanno delle lotte, ed è per questo che le bandiere nazionali devono essere rispettate sempre. Ecco, questa frase tranchant mi ricorda un caso di cronaca, quando insomma due nostri concittadini appunto avevano all'estero, avevano strappato delle bandiere e in Thailandia se l'erano presa molto male, ecco. Da noi, insomma, spesso sì, ormai l'immagine della bandiera bruciata è un'immagine che accompagna tante manifestazioni, però come dici tu, insomma, le bandiere portano dentro la storia di un paese, la storia delle persone che insomma hanno anche vissuto e sono morte per quella bandiera, quindi vanno rispettate. Sicuramente un bel messaggio che appunto, come hai detto giustamente, dovrebbe valere per tutti. Ci sono diversi passaggi che mi hanno colpito. Allora, questa storia della bandiera è evidente, l'influenza della Francia rivoluzionaria di Napoleone, ma c'è anche il passaggio che abbiamo detto sul congresso di Vienna, che di fatto mette l'unità d'Italia sui binari giusti. Però molte cose succedono quasi per caso, per influenze esterne, appunto la Francia, le grandi potenze europee. E da Roma fino all'Unità d'Italia non c'è nessun entità statale, nessun potere, nessuna forza che diciamo gestisca politicamente questo paese. Ecco, qual è il momento in cui l'Italia del Risorgimento, qui andiamo, forse sconfiniamo già nel prossimo volume, riscopre la storia romana e la fa diventare anche un po' il motore dell'unificazione italiana? Tu, Massimo, che sei specialista appunto di storia romana, è una molla, è un'immagine di un passato glorioso che sicuramente ha un ruolo positivo nel formare le coscienze degli italiani, ma quando è che esattamente riscopriamo le nostre origini romane? Beh, in realtà più che riscoprire le origini romane dobbiamo riscoprire le nostre origini pre-romane, insomma, quello è. L'Italia per i romani era solamente una terra, non era un'entità, non era uno stato, non era nulla di più, era solamente una terra su cui prendere e sfruttare le risorse economiche che c'erano. E poi Roma agli albori comunque non concedeva la propria cittadinanza ai popoli che aveva sottomesso all'interno dell'Italia odierna, e peraltro questi popoli non venivano neanche rispettati. Erano i popoli preromani che vivevano in Italia, insomma, abbiamo gli Osco-Umbri, gli Etruschi stessi, i Piceni, i Vituli, comunque, ecco, gli Italici, ecco. E infatti questi popoli, siamo nel 91 avanti Cristo, si sono alleati per andare contro Roma stessa, perché Roma non offriva a loro la cittadinanza, che era qualcosa di importante, la cittadinanza romana. E infatti questi popoli sottomessi erano costretti in pratica a sostenere l'esercito militare romano all'interno di questi territori, erano obbligati a dare l'ospitalità e quindi a dare le proprie risorse, insomma. Però questi popoli preromani, popoli italici, non ricevevano nulla in cambio, volevano la cittadinanza romana, volevano essere rappresentati nel Senato romano e volevano anche loro votare, insomma, ecco. E anche processati, perché l'abbiamo visto con San Paolo, insomma, che era un cittadino romano, e lui per essere processato diceva: no, guardate, sono un cittadino romano e ho tutto il diritto di essere processato. Ecco. Quindi, solo per farvi capire l'importanza della cittadinanza romana al tempo. E allora, siamo nel 91 avanti Cristo, in cui questi popoli si allearono per contrastare la potenza di Roma e ottenere maggiori diritti. Si ritrovano a Corfinium, una città degli Abruzzi, insomma, ecco. E qui la stessa Corfinium cambiò nome, venne chiamata Italia. Infatti, Italia per quale motivo? Perché questi popoli dovrebbero rappresentare tutta l'Italia contro Roma. E guardate caso, cosa utilizzano nelle loro monete come simbolo? Il toro. Il toro che va contro la lupa romana. Ecco. Corfinium diventò capitale di questa grande federazione, di questa grande alleanza antiromana. C'erano i Sanniti, i Marsi, i Peligni, insomma. Hanno ottenuto qualche vittoria militare, però alla fine è finita diversamente, nel senso che gli italici hanno perso la guerra, però al contrario hanno ricevuto dei diritti in più, diritti grazie alla Lex Plautia Papiria, che concedeva la cittadinanza romana a tutti i popoli della penisola. Venivano estromessi i popoli a nord del Po, quindi i Reti, i Cisalpini, i Veneti inizialmente, ecco, insomma. E quindi siamo arrivati a questo punto di svolta. E poi Ricordo, l'Italia era vista come un territorio da cui prendere le risorse, un territorio in cui sfruttare, insomma. E ricordiamoci che sotto Diocleziano nel 292 ci fu una prima unità d'Italia, perché in questo territorio considerato Italia, sotto Diocleziano, siamo nel 292 d.C., Sardegna, Corsica e Sicilia e anche parte del tutto l'Alto Adige rientrarono in questo territorio chiamato Italia. Siamo nel 292 d.C. Ecco. Se è possibile aggiungerei un'altra riflessione. Diceva giustamente Massimo dei popoli preromani. Ecco, la storia a scuola spesso inizia da Roma e dai romani. E tutto quello che era prima di Roma, sì, il periodo preromano. No, diciamo chiaramente che gli italici hanno rappresentato, hanno rivestito un ruolo predominante per la struttura del nostra, anche come cultura. Quindi partiamo la storia italiana, partiamo da raccontarla con gli italici e non con Roma. Poi se vogliamo su Roma possiamo dire anche tante altre cose. Ad esempio i romani insomma, erano formati da una grande varietà di gruppi etnici, però stavano tutti sotto l'autorità romana. Ecco, persone di culture diverse interagivano tra di loro, però avevano poca influenza perché la società romana non era multiculturale, era multietnica. Culturale significa puoi pregare la religione che vuoi, multietnica no, perché tu puoi pregare la religione che vuoi, però dentro i confini della tua casa, quindi è qualcosa di diverso. Ecco. E facciamo un conto, voi conoscete Settimio Severo? Settimio Severo era un imperatore scuro di pelle, veniva dal Nord Africa. E lui diventò imperatore, insomma, perché per i romani non era importante il colore della pelle, perché tu fai parte dell'impero romano, in pratica, purché tu sia in grado di governare. Questo è l'importante per Roma, perché tu sia in grado di governare. Insomma. Non avevano la dichiarazione di appartenenza etnica e linguistica. No, quello no. Insomma, ecco. Era un'oligarchia e eri riconoscente verso alcuni popoli, però se eri in grado di governare, anche se avevi il colore di pelle diverso, non c'erano problemi. Infatti, se andate a vedere... Meritocratici, si direbbe oggi. Insomma. Sì, se andate a vedere l'immagine di Settimio Severo, sembra un Bob Marley, se fate caso, insomma. Scudetto di pelle, con i rasta, ecco. Insomma, ed era imperatore romano, quindi sdoganiamo la... questa brutta voce, questa maldicenza sui romani razzisti, ecco. No, anzi, assolutamente, insomma, da quello che ci racconti, poi il Pantheon è lì a dimostrare il grande rispetto che avevano i romani per tutte le culture, per tutti i popoli che incontravano e su cui passavano anche sopra poi con le loro falangi e le loro testuggini. E tu la chiami pace, ma in realtà è il deserto quello che stai facendo, ecco. Esatto, tacito, giusto? Ho studiato anch'io un po' di classici. E per chiudere, allora, la cara vecchia lira, abbiamo parlato dell'Italia, le lire che spendevamo, che insomma ci penso, mi sento giovane quando penso alle lire. L'altro giorno ne ho trovate in un bicchiere un sacco, avrei dovuto forse portarle perché veramente erano quelle che aveva mia nonna a casa e quindi era una bella collezione. In questo libro c'è anche un passaggio sulla storia della moneta italiana, moneta un altro simbolo fortissimo, poi ancora oggi insomma molto discusso, c'è ancora chi dice dovremmo tornare alla lira, no, meglio l'euro, con la lira saremo falliti, ma tanto falliremo lo stesso. Ecco, qualche passaggio significativo sulla storia della lira. Sì, a me piace pensare che la lira ha accompagnato gli italiani dal 1861 fino al 2000, no, sostanzialmente, e ci ha, lo diciamo nel libro, ci ha tenuto per mano, no, perché quando mettevamo la mano in tasca trovavamo sempre qualche spicciolo di lira. Pensate che nel 1959 la lira era considerata la moneta più stabile del mondo, 1959. Erano gli anni del boom, inizia nel 60, insomma, no? Però la storia della lira, perché si chiama lira? Perché in realtà la moneta in circolo in quel periodo si chiamava libra, da bilancia, perché era il sistema diverso da quello che viene utilizzato quest'oggi. L'aveva ereditato Carlo Magno dagli italioti, dai sicilioti, nel IV e III secolo avanti Cristo, il concetto di libra, e fu proprio Carlo Magno nel 781 che decide di cambiare il senso e il valore monetale, cioè non si pesò più la moneta per darne il valore, il peso ponderato della libra, ovvero della bilancia, il peso che sta sulla bilancia, ma lo legò al rapporto monetale, cioè quanto poteva valere quello che rappresentava ogni singola moneta. La prima lira italiana noi la ritroviamo nel 1806, quando la Zecca di Milano per la prima volta conia la lira. Poi ovviamente nel 1816 si crea la nuova lira del Piemonte, grazie ai Savoia ovviamente, e poi nel 1861 diventa la moneta ufficiale dello Stato. Ed era bello, secondo me, quando sulle nostre monete e anche sulla carta moneta venivano rappresentati dei valori oppure dei simboli del nostro paese. Sulla carta moneta abbiamo magari le immagini di artisti, di letterati, c'erano quando avevamo la lira, ed era anche un omaggio che il nostro paese faceva a chi aveva reso grande fino ad allora il nostro paese, ripeto, artisti, letterati, scultori. E mentre sulla moneta venivano rappresentati quelli che potevano essere, non so, dei valori economici dell'Italia di allora, che davano il senso anche proprio di appartenenza. Ecco, poi c'è stata questa evoluzione o involuzione del passaggio alla lira a una moneta europea. Su questo non ci tengo ad entrare, non si entra nel merito, però ecco, anche la lira ci ha fatto crescere, ha trasformato il nostro stesso modo di pensare, e quindi anche la lira ha contribuito a farci diventare nazione. Volevo aggiungere, tornando a un concetto di prima, l'importanza della nostra nazione è anche quella che l'Italia, gli italiani fondarono per la prima volta i comuni, cioè i comuni sono nati in Italia. Gli italiani, l'Italia di allora, le signorie di cui ha parlato lui, ma se no l'autonomia. Cioè la prima autonomia che arriva in penisola è in Sicilia, con i motti antispagnoli, quando la Sicilia rivendica la propria indipendenza, la propria autonomia, e chiede di diventare una repubblica marinara, e poi viene pugnalata alle spalle dalla Francia, che prima dice sì, noi sosteniamo questa battaglia, poi si ritira. Quindi quello che noi raccontiamo in questo libro sono tutti questi passaggi, ecco, la lira, la bandiera, gli italici, gli indoeuropei, ma anche tutta questa capacità che ha avuto Il popolo della penisola, non possiamo chiamarlo popolo italiano perché eravamo divisi ancora, quindi il popolo della penisola, di costruire pian piano un qualche cosa di nuovo fino a formare la nostra nazione. Ecco, anche il passaggio sulla lira. Io aprirei un po' le domande, cosa dite? Se ci sono domande, gli spunti sono stati veramente, veramente tanti. Io mi alzo, vi porto anche il microfono in cambio di una domanda. Una delle cose curiose che io ho trovato in questo libro, avete utilizzato questa tecnica di mettere le date, no, a lato del testo. Sembra quasi una... cioè lo ritrovo un po' sui libri di scuola. Come nasce questo passaggio? Per favorire la consultazione? Perché effettivamente l'ho trovato molto pratico. Dico, aspetta che vado, ma qui... E soprattutto, diciamo, ogni storia è raccontata, come dire, ci sono tante storie raccontate dall'inizio alla fine. Questa scelta stilistica, come nasce? Chi... No, nasce essenzialmente per favorire la consultazione, ma anche la memoria di ognuno, comunque, perché queste date noi le chiamiamo anelli. Insomma, anelli sarebbero dei paletti importanti per capire, per comprendere la storia d'Italia, insomma, del nostro bel paese. E le abbiamo messe al lato del testo in prosa perché vogliamo far ricordare le date che noi consideriamo importanti, che sono tante date che non vengono neanche ricordate. Faccio l'esempio della battaglia di Gavinana. Che cos'è? Lo sapete leggendo il libro, il sacco di Roma di Carlo V. Lo sapremo, cioè, lo saprete leggendo il libro, oppure le prime date in cui sono stati datati i primi resti umani in Italia. Ecco, sono dei paletti che servono per favorire un po' anche il ricordo della nostra identità, visto che negli ultimi anni si è un po' persa. L'italiano, ora come ora, è in cerca di una propria identità culturale, storica, insomma, di tutto e di più. E ciò non va bene, perché dobbiamo smettere di essere i soliti italiani da tastiera, che ci lamentano per ogni cosa, che non leggono neanche un intero articolo di giornale, di essere chiamati dagli altri paesi europei come analfabeti funzionali d'Europa. Insomma, non è bello questo. Dobbiamo cercare di ricordare un po' la nostra storia, perché grazie alla storia noi riusciamo a risolvere i problemi di oggi, come in questo caso. Sapendo la storia dei romani, di come hanno risolto alcuni problemi, o non risolto alcuni problemi, parlo dell'invasione dei barbari, insomma. Non è che l'ha risolto, però. No, infatti, anche là bisogna capire, insomma, quello che è successo là, per comprendere anche il nostro presente, insomma, e tutto di più. Noi dobbiamo cercare una propria identità culturale storica, e, insomma, so di essere un po' nostalgico verso questi eventi, però insomma la storia è maestra di vita e dobbiamo essere riconoscenti. Io penso che ogni data è un piccolo pezzo di storia, no? E quindi avevamo questa intenzione proprio di metterla in rilievo in qualche forma, e quindi avevamo poi scelto questa, identificabile. Poi certo, diventasse un testo scolastico sarebbe fantastico, no? Nel senso che diventa più facile proprio l'acquisizione del dato. Io volevo concludere i miei ragionamenti dicendo che la storia della propria nazione, di ogni nazione, è importante. Quelli che conosce la storia della propria nazione ci aiuta indubbiamente a rispettare, ad amare di più la nostra nazione. per tutto il percorso che ha fatto, i tanti momenti complessi, difficili che ha attraversato, belli o brutti, per quello che è stato costruito in millenni. Noi parliamo di successo ieri, ma cosa è successo fra 2000 anni fa, 3000 anni fa? Se pensate appunto ai primi indoeuropei arrivarono oltre 3000 anni fa, no, noi ci perdiamo a pensare cosa può essere oggi o cosa è stato ieri. Quindi ecco, la nostra aspirazione è proprio quella, impariamo ad amare la nostra nazione, cerchiamo di farlo magari anche attraverso questo nostro libro, il primo volume di questi nostri racconti. Per il prossimo ci ridiamo appuntamento. Pensate che nel terzo potete vedere anche quando è nato Angelucci, perché noi... Quindi insomma va nel passato. Una domanda, avevo promesso che portavo il microfono. Mi scusi, ma scusate, ma voi nel libro fate anche, praticamente dite, per esempio, dopo l'anarchia militare a Roma, la decentralizzazione dell'impero, parlate anche di quello, che viene meno l'importanza di Roma? Beh, no, Roma è comunque importante, insomma. Il problema è che noi ricordiamo Roma per il Colosseo, per i fori, per i teatri, gli anfiteatri, insomma, no, bisogna anche ricordare ciò che fece Roma, in pratica, e ciò che erano i romani, ma anche i romani al momento della propria nascita, insomma. Faccio un esempio. Roma, secondo la leggenda, secondo la tradizione, fu fondata il 21 aprile del 753 avanti Cristo, insomma, ecco. Lei sa perché quella data lì, il 21 aprile? Perché il 21 aprile si festeggiavano le pariglia, dal verbo parere, partorire, insomma. Perché? Perché in pratica nascevano, in quella parte dell'anno, capretti e agnellini. Ora, faccio una domanda retorica, speriamo che lei riesca ad arrivarci, insomma. Ecco, verso aprile, che festa si festeggia verso aprile? Religiosa. A Pasqua. E a Pasqua cosa si ammazza? Cosa si mangia? L'agnello. Quindi, in pratica, anche in questo caso, noi abbiamo nella Pasqua abbiamo anche delle origini romane. Insomma, quello che non bisogna... io dico che... È ridicolo non onorare la storia romana per paura di essere assimilati a un periodo che viene dopo quello romano, attenzione. Comunque, chiaro? Qua in Alto Adige è un tabù a causa di Tolomei. Qua in Alto Adige è ancora un tabù. Però bisogna ricordare ciò che fecero i romani. Insomma, l'ho detto prima, non era una società multiculturale, ma in realtà era una società multietnica. Ognuno aveva... Ognuno poteva professare la propria religione, però all'interno dei propri confini, quindi all'interno della propria casa. Insomma, al di fuori c'era il pantheon greco-romano da rispettare, le leggi romane c'erano da rispettare, insomma, ecco. Io amo tanto la storia di Roma. Roma ha avuto i suoi vantaggi, i suoi svantaggi, ha avuto il suo periodo buio, lo schiavismo addirittura. Però c'era anche il Mos Maiorum, il rispetto delle tradizioni, insomma. E una cosa che abbiamo ancora oggi dei romani è il culto degli antenati. Non so, voi avete sui comodini, oppure in alcune parti della casa, insomma, le foto dei vostri antenati, giusto? Ce l'avete ancora? Nonni, zii, insomma, ormai morti, ecco. Noi prendiamo questa usanza grazie ai romani, perché i romani avevano l'arario, avevano una piccola edicola, un piccolo santuario all'interno della casa in cui venivano messi queste statuine che rappresentavano gli antenati. Ecco, quindi è già qualcosa che abbiamo ancora oggi. Non è né bianco né nero, tutto è grigio. Insomma, spero di aver risposto alla sua domanda. Ecco. Bene. Altre domande? Direi che poi gli autori sono presenti per e disponibili a domande ad personam. E grazie a Stefania Gander per aver pubblicato il libro, grazie anche insomma al Centro Trevi per averci ospitato qui e grazie a voi insomma che ci avete onorato della vostra presenza. E aspettiamo il secondo volume allora. Quando? Quando? No, il secondo volume è sostanzialmente pronto, dobbiamo finire di correggere alcune parti e poi dopo lo consegneremo all'editore. Io ringrazio Marco per aver voluto presenziare a questa nostra presentazione. Volevo solo dirvi una cosa. Marco diceva ci conosciamo da molto tempo, sì, forse ha dimenticato di aggiungere che aveva già fatto una presentazione a un mio libro, che vedo che lì ci vuole coraggio, mi ricordo era una presentazione scritta, adesso è una presentazione orale, quindi è un'amicizia che dura ormai da tanti anni ed è anche una grande stima, almeno da parte mia, nei suoi confronti, insomma. Grazie. Quasi 50 anni che ci conosciamo. Quasi. Non è ancora poi, poi ti devo ringraziare perché sei una buona penna qua in Alto Adige, quindi tu mi hai insegnato anche le basi del giornalismo. Quindi fare informazione. Ecco, fare informazione è importante ora come ora, molto importante. Non dobbiamo arrivare all'infodemia, dobbiamo essere informati. Ecco, questo. L'importanza del pluralismo hai fatto bene, ne abbiamo tanto bisogno in Alto Adige. Grazie.